giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Mi sono d'accordo con Giuliano. Dobbiamo combattere per l'indipendenza dalla Sicilia. E John! Addiventiamo tutte soldate ora! L'Italia ci ha mandato per il fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta, e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti. È il 1° maggio 1947, Sicilia. È gran festa a Portella della Ginestra. Sembra ormai estate. In almeno 2000 si radunano nel giorno della festa del lavoro. E sono in gran parte contadini, gente povera, gente che vive di zolle di vita e di ettari di lavoro. Dalle alture la vista sulla vallata è ancora più bella. Nei prati in quei giorni spuntano mille fiori gialli e rossi e l'odore del mare è potente. E poi ci sono quelle persone in festa che hanno portato perfino da mangiare e da bere, proprio come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha piazzato armi da guerra. Centinaia di colpi in rapida successione. La strage dura un paio di minuti. Alla fine la mitragliatrice tace e un silenzio carico di paura piomba sull'intera comunità di persone. 11 morti, 2 bambini, 9 adulti, 27 feriti. Solo 4 mesi dopo si scopre una verità ancora parziale. A sparare sulle colline sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano. Gente senza anima, senza valori. Predoni criminali che qualcuno però trasforma in un'armata irredentista e separatista. Ma chi è Salvatore Giuliano, il re di Montelepre? Lo racconta al giallo e nero Palmira Mancuso. Questa è la piana intorno a Montelepre. Paesi uno dietro l'altro. Giardinello, Torretta, Carini, Martinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo. Salvatore Giuliano, il leggendario bandito, è ancora oggi un personaggio difficile da comprendere fino in fondo. La sua storia è anche la storia della Sicilia del dopoguerra, dei tanti intrighi tra mafia, politica e banditismo che fecero di Giuliano, il re di Montelepre, uno dei più popolari delinquenti di tutti i tempi. Prima una sorta di Robin Hood che toglie i ricchi per dare ai poveri, poi una pedina della mafia che dopo lo sbarco degli alleati si muove per riconquistare il potere economico e politico dell'isola sotto la bandiera del separatismo e della lotta al comunismo. Salvatore Giuliano è nato a Montelepre, in provincia di Palermo, nel 1922. A 21 anni, nel 1943, il suo primo omicidio uccide un carabiniere che lo ferma con un carico di grano. Da quel momento Giuliano sceglie la vita della fuga tra le montagne e diventa capo di una banda che poi farà parte dell'Evis, l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, il braccio armato del movimento indipendentista. Il nome di Salvatore Giuliano resta però legato alla strage di Portella delle Ginestre, la prima strage di Stato compiuta dalla sua banda il 1° maggio 1947. Da quel momento Turiddu Giuliano si dà alla latitanza, è diventato troppo scomodo e bisogna eliminarlo. È l'ultimo mistero nella vita di Giuliano, la sua morte. Il suo corpo viene trovato il 5 luglio del 1950. Ufficialmente il bandito è stato ucciso dai carabinieri in un conflitto a fuoco, ma poco dopo il suo ex picciotto Gaspare Pisciotta confesserà di averlo ammazzato per conto dei carabinieri. Questa fu l'unica rivelazione di Pisciotta. Deciso a parlare, fu messo a tacere in carcere, avvelenato a Lucciardone nel 1952. Natira Giuliano! E allora, compiamo un passo indietro. Aprile 1943. Salvatore Giuliano aderisce all'MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, sostenuto dalla mafia. Il movimento, attenzione, nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere ai contadini migliori condizioni di vita. La mafia reagisce come sempre, come sa fare. Uccide i sindacalisti, i militanti politici, gente comune. Il movimento non è però sostenuto solo dai mafiosi, ma anche da siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché l'MIS, MIS, tra il 43 e il 47 gode di un notevole sostegno popolare. Ma già dal 1945, dopo cioè la vittoria contro i nazifascisti, il separatismo perde l'appoggio americano e sceglie la strada dello scontro armato. Nasce l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, di cui Salvatore Giuliano diventa colonnello e assume il comando per la Sicilia occidentale. Salvatore Giuliano diventa amico di personaggi importanti, appartenenti al mondo monarchico e conservatore siciliano, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare militarmente il comunismo in Sicilia. E questa è la premessa a quella che verrà definita la prima strage di Stato, l'eccidio di Portella della Ginestra. Giuseppe Casarubea è il presidente dell'associazione Non Solo Portella, quella che chiede ancora verità e giustizia per i familiari della strage di Portella della Ginestra. Casarubea giudica così il fenomeno del separatismo in Sicilia. Il separatismo diventò un braccio armato dei gruppi eversivi. Abbiamo moltissimi documenti reperiti in questi ultimi mesi nei quali si dimostra il connubio che c'era tra il movimento separatista e i gruppi neofascisti. Abbiamo trovato anche le carte che riguardano i soggetti della banda Giuliano che si esercitavano, che so, a Campalto di Verona o in altri luoghi, assieme agli uomini della decima massa di Junio Valerio Borghese. Casarubea è uno storico della mafia e delle sue protezioni politiche. Lui ci ha dato una spiegazione su cosa è realmente accaduto quel primo maggio del 1947. Quella strage è rimasta un mistero perché non sappiamo ancora oggi chi sono i mandanti. Abbiamo delle ipotesi che ci fosse un'operazione contro i comunisti e i socialisti, questo è fuori discussione. Che gli autori di questa operazione fossero Giuliano e i quattro pastori di Montelebre, questo è molto dubbio. Giuliano era presente sul posto, ma serviva da parafulmine per una serie di operazioni di tipo eversivo che altri soggetti stavano mettendo in atto. Questi soggetti li abbiamo individuati per quello che risulta dai documenti desecretati da Bill Clinton nel 2000 e che abbiamo reperito appunto a Washington, a College Park. Ci sono nomi e cognomi anche dei banditi della banda Giuliano. Dovevamo andare a Washington per sapere come stavano le cose, perché ancora oggi l'archivio di Stato ci scrive che quelle carte sono inaccessibili. Quindi non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato di fare luce e chiarezza su questa vicenda. Su quella strage restano ancora molti lati oscuri. La vicenda giudiziaria si conclude il 3 maggio 1952. 12 ergastoli, 5 condanne per una strage rimasta ancora senza mandanti. Ma Salvatore Giuliano era già morto e con lui i segreti che custodiva. Ma cosa potrebbe rivelare ancora la nuova indagine sulla strage di Portella della Ginestra? Sentiamo ancora lo storico Giuseppe Casarubea. Ci sono delle persone ancora vive, che allora avevano 18 anni, che magari facevano parte di gruppi eversivi. Lei sa che subito dopo il 25 aprile molti gruppi si trasferirono in Sicilia, la Sicilia era come un grande arcipelago del neofascismo, questo non si sapeva, era un pullulare di gruppi eversivi presenti su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia in modo particolare perché la Sicilia era la prima terra liberata dagli alleati, no? E quindi c'era l'interesse da parte di coloro che volevano lottare il formarsi del nuovo Stato a fare in modo che questo Stato non sorgesse o sorgesse secondo certe caratteristiche. Quindi molti gruppi neofascisti si trasferirono a Palermo, Palermo diventò la capitale di un progetto eversivo nazionale.